Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Con l'HIV non si scherza, questo è il monito lanciato dal Ministero della Salute e anche il claim della nuova campagna di comunicazione volta a innalzare immediatamente il livello di attenzione, soprattutto tra i più giovani, che rappresentano la categoria più in pericolo per l'allarmante diminuzione della percezione del rischio. A Obiettivo Salute, Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Mentre c'è una tendenza, anche se ha una lieve diminuzione, comunque sia, ad una diminuzione dei casi in totale, questo rallentamento fra i giovani invece è meno sensibile, che vuol dire che evidentemente c'è una perdita di memoria generazionale da parte dei giovani, c'è una percezione di rischio che evidentemente è ancora troppo bassa e bisogna, con le nuove campagne di informazione, rinforzare il messaggio che purtroppo, anche se non grave come in passato, perché in qualche modo cronicizzabile attraverso l'uso delle terapie combinate, l'AIDS e l'infezione HIV ancora esistono, sono le realtà con cui dobbiamo fare i conti. E proprio in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS, oggi in diretta video, con l'aiuto del dottor Tambussi, risponderemo alle domande su prevenzione, cura e trasmissione della malattia. Gli uomini che perdono i capelli da giovani o ingrigiscono precocemente potrebbero avere un rischio maggiore di avere problemi cardiaci, lo rivela uno studio presentato alla 69esima conferenza annuale dei cardiologi indiani. A Obiettivo Salute commenta la notizia il professor Antonio Bartorelli, responsabile della cardiologia interventistica dell'IRCCS, Centro Cardiologico Monzino, e docente all'Università di Milano. Il legame tra calvizia e rischio di malattia coronarica è un argomento dibattuto da tanti anni. Indubbiamente questo è probabilmente dovuto a un'aumentata sensibilità dei soggetti agli ormoni maschili, agli androgeni, ma non dobbiamo dimenticare che spesso la calvizia si associa ad altri fattori di rischio ben noti che aumentano il rischio di malattia coronarica, e questo fondamentalmente è la familiarità, molto importante. Se il padre ha avuto un infarto in età giovanile, il figlio ha un rischio maggiore; se il colesterolo è alto, se la pressione è alta, se c'è addirittura un diabete, se il paziente è un forte fumatore. Quindi non drammatizzerei, non è assolutamente provato che pazienti che abbiano una calvizia soprattutto al vertice, quindi non solo la modesta tempiatura ma una calvizia diciamo socratica, siano sicuramente a maggior rischio di infarto, però se vi è anche un'associazione con i fattori che ho nominato, fare delle indagini preventive per escludere la malattia coronarica è sicuramente consigliabile. La programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto per questa importante diretta video e vi do appuntamento anche domani a mezzogiorno con Obiettivo Salute Weekend e domenica sempre a mezzogiorno con La Bufala in Tavola.